Radio 24 Reportage. Cacciatori di virus, la ricerca va avanti. Di Rosanna Magnano. Uscire dall'incubo della pandemia è il sogno che unisce l'umanità intera in questo momento. Le speranze di sconfiggere una malattia nuova e potenzialmente grave come il Covid-19 sono tutte nella ricerca, perché ancora non esiste una cura e non esiste un vaccino, ma ogni giorno la scienza fa passi avanti e oggi li percorriamo insieme ad alcuni protagonisti di questa sfida epocale. Prima del vaccino, che richiede ancora tempi lunghi, la ricerca si concentra su possibili cure per salvare subito chi ha contratto il virus in forma grave. Ad autorizzare e guidare la gestione delle sperimentazioni cliniche l'Agenzia Italiana del Farmaco. Francesco Trotta, dirigente AIFA per il monitoraggio della spesa farmaceutica. Le sperimentazioni cliniche che sono avviate in Italia riguardano in particolare un antivirale, questo Remdesivir. Sono due studi clinici promossi dall'azienda produttrice nel setting ospedaliero. Accoppiati a questi due trial c'è un programma di uso compassionevole. Altro aspetto di cui si stanno conducendo studi clinici sono questi farmaci che agiscono a livello dell'infiammazione, quindi sui processi, sulla cascata infiammatoria, in particolare per il rilascio delle citochine. E qui abbiamo 3 studi sul tocilizumab, uno in programma nazionale. Questo studio Tocivid promosso quindi dall'Istituto Nazionale dei Tumori. C'è un trial comparativo quindi rispetto alla migliore terapia disponibile promosso dall'IRCCS di Reggio Emilia e di recente c'è anche uno studio sponsorizzato dall'azienda, sempre controllato. L'altro farmaco su cui stanno conducendo ricerche è il sarilumab, è un analogo, sempre un anti-interleuchina 6, quindi con un meccanismo molto simile a quello del tocilizumab, e qui abbiamo uno studio sponsorizzato dell'azienda. Sempre per rispondere a questa cascata, diciamo, infiammatoria, c'è un altro studio comparativo che confronta 2 farmaci rispetto alla terapia disponibile, che sono un anti-interferone gamma, questo anticorpo monoclonale mapalumab, e l'anakinra, che è un anti-interleuchina 1. Questo è quello che è sul tavolo. Poi l'agenzia sta facilitando al massimo l'avvio delle sperimentazioni cliniche per cercare di ridurre al massimo i tempi per far partire il prima possibile le sperimentazioni cliniche al fine di dare risposte in tempi brevi. Altra cosa su cui sta lavorando è provare, diciamo, a valutare la partecipazione, garantire, insomma, la partecipazione dell'Italia a studi anche multicentrici a valenza internazionale. Ad esempio questo qui sponsorizzato dall'OMS. Si attende a giorni il risultato delle sperimentazioni cliniche sul Remdesivir, un antivirale sviluppato dall'americana Gilead Sciences contro l'Ebola, che si è poi rivelato promettente anche per combattere il nuovo coronavirus. La società ha donato 1,5 milioni di dosi del farmaco per i pazienti di tutto il mondo, ha avviato 2 trial in Italia in 12 centri ed esteso l'uso compassionevole ad altri 10 ospedali. Valentino Confalone, General Manager di Gilead Italia. I 2 trial clinici Gilead che sono stati attivati in Italia su pazienti moderati e severi stanno svolando ormai anche più velocemente di quello che avevamo previsto, in particolare lo studio sui pazienti severi. Quindi su questo studio, che è il più urgente e più importante, ci aspettiamo risultati come avevamo previsto entro la fine di aprile. Lo studio sui pazienti moderati è uno studio invece che sta volando più o meno con i tempi che avevamo previsto, quindi lì ci vorrà un po' più di tempo, quindi rimane la data di maggio per ottenere dei risultati. In entrambi i casi 12 centri italiani su entrambi gli studi stanno lavorando. L'uso compassionevole è stato attivato più recentemente su un'altra tipologia di pazienti, che sono quelli ancora più severi, quindi che sono in terapia intensiva e con ventilazione assistita. È stato esteso a centri diversi da quelli sui quali sono attivi clinical trial per cercare di rendere disponibile il trattamento a un numero un po' più ampio di centri, quindi sono stati aggiunti 10 rispetto ai 12 iniziali coinvolti negli studi clinici. arrivando in questo caso anche a regioni dove non erano stati aperti gli studi clinici, quindi il Cotugno a Napoli e il Garibaldi a Catania. Inizialmente il farmaco era prodotto in quantità molto limitate per gli studi clinici sull'Ebola ed erano in realtà pochissimi quindi gli stabilimenti che erano coinvolti nella produzione. Da gennaio, in cui è iniziata la pandemia, ad oggi, quindi nel giro di 3 mesi scarsi, sono stati moltiplicati gli stabilimenti produttivi o Gilead o di partner, cosiddetti contract manufacturing operations, per cui siamo arrivati ormai a oltre un centinaio di partner coinvolti nello sviluppo della produzione, ivi compresi alcune CMO, come le definiamo, in Italia, che sono coinvolte sia nella produzione del principio attivo sia in altre fasi critiche del processo produttivo. Questo ha consentito due cose: innanzitutto quell'incremento significativissimo della capacità produttiva. Dai 5.000 trattamenti di gennaio siamo passati ai 30.000 di aprile, contiamo di arrivare, come dicevo prima, a 140.000 a maggio e da qui a fine anno a 1 milione ed oltre. Tutti questi investimenti produttivi, che sono investimenti di centinaia di milioni, sono investimenti che stiamo facendo al buio, a rischio. Di fronte a una pandemia era l'assoluta priorità garantire che se avesse funzionato il farmaco dovevamo essere pronti, e se poi i risultati non saranno quelli sperati, il gioco valeva la candela dal punto di vista proprio della salute pubblica. Detto ciò, dobbiamo essere ottimisti, mancano poche settimane o anche forse meno per saperlo, e incrociamo le dita. La corsa globale al vaccino conta una quarantina di concorrenti, dal vaccino di Bill Gates, che l'azienda biotech americana Inovio sta sviluppando, entrato nella sua fase di sperimentazione sull'uomo, al cerotto anti-Covid messo a punto all'Università di Pittsburgh dal team coordinato dall'italiano Andrea Gambotto. E in prima linea c'è anche la multinazionale americana Johnson & Johnson. Massimo Scaccabarozzi, presidente e amministratore delegato di Janssen, l'azienda farmaceutica di Johnson & Johnson. Johnson & Johnson, attraverso Janssen, che è la parte farmaceutica della società, ha selezionato un candidato vaccino che sta testando da gennaio 2020. Pensiamo di iniziare la fase 1, quindi sull'uomo, entro settembre 2020. Ci siamo però presi un rischio, che è quello di cominciare comunque la produzione già dal primo di aprile. Abbiamo una tecnologia importante per lo sviluppo di questo vaccino, una tecnologia testata, una tecnologia nostra che ha funzionato molto bene per Ebola e ha funzionato anche per altri candidati vaccini, per esempio per fronteggiare Zika, l'HIV o il virus, o contro il virus respiratorio sinciziale. E tutto questo avviene grazie a una partnership importante. Intanto si è espansa la collaborazione con BARDA, che è il Biomedical Advanced Research and Development Authority del Dipartimento della Salute americano, che prevede un investimento tutto insieme di 1 miliardo. E credo che questo risultato si ottiene proprio grazie non solo alla partnership con BARDA, ma alla partnership con gli scienziati di tutto il mondo con cui J&J da sempre collabora. Siamo pronti già a produrlo, assumendoci dei rischi della produzione in attesa dei test definitivi già ad aprile, perché nel miliardo di investimento ce ne sono 300 milioni per espandere un sito produttivo in America, in Europa, in Asia, ma anche qui stiamo sfruttando il nostro centro di Leiden in Olanda, perché questo centro è pronto a produrre 1 miliardo di dosi che siano pronte nel momento in cui il vaccino si sarà dimostrato efficace. Mettiamo in campo la nostra esperienza e una grande capacità di scala per arrivare poi a una produzione che sia in grado di soddisfare il fabbisogno mondiale. La migliore delle ipotesi dovrebbe essere disponibile in emergenza per gli inizi del 2021. Nell'ambito diagnostico l'Italia è ancora alle prese con il nodo tamponi, che dovrebbero consentire di individuare le persone positive al virus e gestire l'isolamento dei pazienti e la presa in carico precoce sul territorio. Esigenze che si sono spesso scontrate con la difficoltà di processare un gran numero di test da parte dei laboratori. Un'alternativa arriva dal gruppo Menarini di Firenze, che distribuisce in Italia uno strumento portatile in grado di dare una risposta automatica in 20 minuti. Fabio Piazzalunga, direttore generale di Menarini Diagnostic. Si ha il prelievo del campione nasofaringeo sul paziente. La differenza è che poi, con semplici procedure che durano al massimo 2 minuti, il campione viene poi trasferito in una provetta con il reagente e inserito in questo strumento, che è di piccole dimensioni e portatile, e dopo 20 minuti si ha il risultato. Il posizionamento ideale è quello, per esempio, nelle tende triage fuori dagli ospedali, in modo da consentire lo screening in modo sicuro, accurato e veloce, per evitare i tempi di attesa ai pazienti e evitare quindi anche possibilità di contagio ulteriori. Abbiamo pensato che la risposta diagnostica dovesse essere su più livelli, in maniera da consentire anche di avere meno pressione sui laboratori centrali, che in questo momento appunto hanno un'altissima quantità e volumi da processare, e se riusciamo a decentralizzarli questi screening laddove servono, una grossa mano al sistema sanitario. Un altro snodo di questa pandemia sarà giocato dai test sierologici, in grado di individuare le persone che hanno già sviluppato gli anticorpi e sono quindi immunizzate. Sul mercato mondiale ci sono molte alternative, non tutte ugualmente affidabili, e i laboratori sono in cerca di un test sicuro da usare su larga scala nei singoli paesi. Federico Forneris, professore associato di biologia molecolare all'Università di Pavia. Il mio gruppo è collocato all'Università di Pavia, Dipartimento di Biologia e Biotecnologie, e facciamo parte di un piccolo consorzio che si è creato spontaneamente per sviluppare test sierologici. Quello che noi facciamo in particolare è produrre l'antigene, ossia produrre quel frammento del virus che di suo è innocuo, ma che serve in questi test per andare a vedere se nei sieri dei pazienti o dei soggetti che saranno esaminati sono presenti o no gli anticorpi. Il primo batch di campioni di antigene che stiamo producendo, contiamo di portarlo ai colleghi dei gruppi di immunologia di Rieo di Milano, in modo tale che loro possano iniziare i primi test effettivi e la verifica del buon funzionamento. Ci sono colleghi all'interno del nostro consorzio che stanno già ragionando sulla possibilità di rendere il test automatizzato e quindi applicabile su larga scala. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.